America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Tampa in Florida. Mario Platero. Si è tenuto ieri sera un altro dibattito repubblicano, un dibattito chiave, perché la Florida, dove si voterà il prossimo 31 di gennaio, diventa uno stato fondamentale per rilanciare o affossare definitivamente la campagna di Mitt Romney. E dunque Romney è partito all'attacco. I call it influence peddling. Direi che questa è stata la frase chiave, la frase simbolo con cui Romney ha attaccato Gingrich, si è tolto i guanti, lo ha praticamente insultato pubblicamente, devo dire con una certa grazia. In questo caso gli ha detto: caro Gingrich, tu sei un piazzista di influenze, sei andato in giro a vendere la possibilità di avere il tuo aiuto di lobbista. Ma ora vorrei passare a un'altra notizia, secondo me molto importante. L'arrivo del Presidente del Consiglio Mario Monti il prossimo 9 di febbraio a Washington per un incontro con Barack Obama alla Casa Bianca. E devo dire che, conoscendo Mario Monti e Barack Obama, l'alchimia fra i due, quando si vedranno per la prima volta appunto il 9 febbraio, sarà secondo me perfetta. Sul tavolo vi saranno dossier importanti, primo fra tutti quello per la crescita economica, a cui Monti sta lavorando, cui Obama tiene forse più di ogni altra cosa in questo momento, ma non si può mettere secondo me in secondo piano l'importanza del rapporto personale. Obama e Monti sono fatti per intendersi l'uno con l'altro, sono due intellettuali, entrambi pragmatici, entrambi pronti alla battuta ironica, entrambi misurati, riflessivi, non impulsivi. Si aggiunga, e questo non è secondario di nuovo, che fra i leader europei Mario Monti è quello che conosce meglio l'America, e Mario Monti è il leader europeo più conosciuto dall'America della politica, dell'imprenditoria, della finanza. Adherence to fiscal discipline is a necessary condition for growth. It is not, however, a sufficient condition. L'inglese di Mario Monti è perfetto, ha parlato varie volte al Council on Foreign Relations, all'Institute for International Economics, a Washington, ha rapporti istituzionali già ben radicati con centri studi in questo paese, vi dicevo, ha lavorato con grosse istituzioni industriali e finanziarie. Ecco, questo per dire che questo viaggio di Monti a Washington potrebbe diventare, secondo me, uno spartiacque nei rapporti fra i nostri due paesi. L'Italia potrebbe con Monti diventare l'interlocutore operativo privilegiato nel contesto europeo, e per noi la sponda americana in questo momento di negoziati economici e politici europei, che vedono il nostro paese come l'anello debole della catena, può diventare davvero molto importante. Monti conosce bene il modello tedesco, lo rispetta, ha sviluppato un rapporto importante con Angela Merkel. Ecco, nel difficile contesto dialettico transatlantico, dialettico sull'economia del nostro tempo, pensate soltanto a quello che dicono i candidati repubblicani quando attaccano l'Europa, dicono che è statalista, che Barack Obama si sta ispirando all'Europa, eppure lo sappiamo, le differenze anche con Obama sono marcate, e ci sono due modelli, soprattutto quello tedesco che sta prendendo piede in Europa è molto diverso da quello americano, sono modelli diversi per filosofia e tradizione, e se finissero questi due modelli per divergere ulteriormente invece di convergere, secondo me sarebbe un disastro. Per questo, ed è questa l'importanza secondo me fondamentale, Monti, dopo aver affermato la sua credibilità e le sue credenziali in questi vertici europei multilaterali o bilaterali, può diventare l'uomo della convergenza, della mediazione per rafforzare quelle politiche che vogliono cercare di proiettare anche l'Europa su un percorso di crescita. Torniamo alla campagna elettorale americana. Vi propongo un paio di altri scambi. You said you were paid $300,000 by Freddie Mac as for an historian. As an historian, they don't pay people $25,000 a month for 6 years as historians. That adds up to about $1.6 million. Romney che attacca Gingrich, è inutile sentire altro, perché poi il dibattito è stato piuttosto noioso, si è parlato di cose interne, di cose locali relative alla Florida. La vera cosa che è successa ieri sera è stato l'attacco contro Gingrich. In questo che vi ho fatto sentire, Romney dice: lei ha detto di essere stato pagato $300,000 da Freddie Mac come storico. Nessuno paga uno storico $25,000 al mese per 6 anni, stiamo parlando di $1.6 million. Loro non l'hanno assunta come storico, e questo contratto lo dimostra. Lei era un consulente, è stato assunto dal capo lobbista a Freddie Mac. Ecco, Gingrich davanti a questo attacco è rimasto, devo dire, semiparalizzato. Non ha risposto bene, ha cercato di divagare, non ha convinto. Sentiamone un altro. If your entities are getting paid by health companies, that could benefit from a piece of legislation, and you then meet with Republican congressmen and encourage them to support that legislation. You can call it whatever you'd like. I call it influence peddling. Ecco, qui Romney dice che se uno viene pagato dalle società farmaceutiche, viene a Washington e si incontra con i membri del Congresso e parlando con i membri del Congresso vuole convincere ad appoggiare certi disegni di legge, beh, dice, possiamo chiamarlo come volete, ma io lo chiamo appunto influence peddling, piazzista di influenza. L'attacco, vi dicevo, è andato bene, secondo me. Sicuramente Romney ha vinto questo dibattito. Gli ultimi sondaggi della Florida, tuttavia quelli precedenti al dibattito di Rasmussen, davano Gingrich in forte recupero su Romney, addirittura in grosso vantaggio, addirittura al 41% dei sondaggi, con 9 punti di vantaggio su Romney al 32%, Santorum all'11%, Paul all'8%. Ecco, vorrei proporvi adesso una chiacchierata che ho fatto ieri notte a Tampa con Paolo Valentino del Corriere della Sera, nella Spin Room, dove dopo il dibattito le strateghe dei candidati e spesso i candidati stessi arrivano per parlare con noi giornalisti. Paolo, siamo ormai arrivati a una corsa a due? Beh, credo che sia il dato centrale del dibattito di questa sera. Romney e Gingrich hanno duellato, mi pare con una supremazia questa sera di Romney, che ha riscattato la pessima figura fatta nei due dibattiti in South Carolina. Questa sera abbiamo visto un Romney molto aggressivo, molto determinato, che è riuscito più volte a mettere Gingrich in difficoltà sulle sue attività di lobbista, sulle sue attività per conto di Freddie Mac e dell'industria sanitaria. Quindi mi pare che tutto sommato sia stato un dibattito in cui, se bisogna dichiarare un vincitore, questo è sicuramente Mitt Romney. Mitt Romney ha usato un termine che ha colpito: piazzista di influenze. Piazzista di influenze per che cosa? Beh, per vendere questa sua influenza, ma in realtà c'è stata una frase molto felice, sempre di Romney, quando ha detto: ma come, ti pagavano $30,000 al mese per dargli lezioni di storia? È credibile o era un lobbista? Gingrich, dico. No, era palesemente un lobbista, e credo che quella di questa affermazione, influence peddler, cioè piazzista di influenza, è stata la stoccata vincente di Romney questa sera, soprattutto quando ha citato il caso dell'industria farmaceutica che pagava Gingrich, il quale nello stesso momento faceva pressioni sui deputati repubblicani affinché votassero pezzi di legislazione che pagavano appunto le industrie che favorivano le industrie che lo pagavano. Queste palesemente un conflitto di interesse, un lavoro da lobbista. Credo che su questo Romney sia stato questa sera quasi limpido, nel senso che infatti a un certo momento è stata questa la cosa che mi ha più impressionato: Gingrich ha allargato le braccia, in un certo senso è rimasto completamente in silenzio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Grateful Dead hanno lanciato Dead Covers Project, una chiamata alle armi per tutti coloro che vogliono cimentarsi col remake delle loro canzoni. Nel mese di febbraio le migliori saranno pubblicate sul canale YouTube della band dei Grateful Dead, Trucking. Got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Da Tampa in Florida è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.